pensiasi a voi, non pensiasi a voi, non pensiasi a voi, potete fermare tutto questo. Allora, sono le ore 23, 2 minuti primi, in diretta qui da Onda Rossa, sempre con DJ Misk, ovvero Nino, che vi sta per presentare altro verso anche quest'oggi, 31 dicembre 2011, puntata speciale di Capodanno, puntata di altro verso, esattamente la numero 693, proprio ad annunciarvi insomma le ultime release di questo anno 2011. E naturalmente pronto poi a ricordarvi l'appuntamento di questo Capodanno 2012 con i DJ, con la storia, la festa della radio ad Acrobax, via della Vasca Navale numero 6. Più tardi vi dirò ancora nel dettaglio, proprio in modo preciso, le varie sale, i vari artisti, i vari DJs. Comunque ricordatevi, tra pochissimo, anzi è già iniziato da qualche minuto esattamente, proprio l'iniziativa al Cinodromo con i DJ della radio. Comunque direi che siamo veramente pronti per partire con questa puntata numero 693 di altro verso, solo musica elettronica, solo la migliore elettronica underground qui su Onda Rossa. Radio Onda Rossa ti invita all'ascolto di altro verso dalle 23 alle 6 del mattino. News, classifiche, recensioni, live e DJ set da tutto il mondo. Altro verso, il meglio della musica elettronica. Così è la prima selezione di questo sabato 31 dicembre in diretta qui da Onda Rossa con DJ Misk che vi sta presentando Altro Verso, la sua musica elettronica. Dicevo, la prima selezione di oggi è firmata a Mark De Pulse con Gegen Den Strom su Ostwind Records. Vi parlo subito di questo sabato notte con il Capodanno 2012 targato Radio Onda Rossa e Loa Acrobax. Si svolgerà in via della Vasca Navale numero 6, ex Cinodromo della Capitale. Ci saranno ben 3 sound system. Nel primo ci sarà la musica reggae e i concerti di Mamma Marias e Adriano Buono e la sua Torpedo Sound Machine, oltre ai vari DJs reggae di Radio Onda Rossa. Poi nella Electronic Dance Floor troverete tutta la musica di Altro Verso con DJ Misk direttamente proprio qui da Onda Rossa, direttamente insomma da questo microfono che poi staccherò proprio per arrivare alle ore 24:30 proprio lì allo Acrobax. Invece nella terza sala ci sarà lo spazio trash, revival, rock, insomma ci sarà veramente da divertirsi per questo Capodanno 2012. Ingresso di 9 euro a sostegno, a sottoscrizione di Radio Onda Rossa e dello Acrobax. Un grande festone, un grande evento anche quest'anno per insomma la nona volta consecutiva o qualcosa di simile, insomma, che la radio organizza questo grande evento, questo grande concerto. Mi raccomando, maggiori informazioni le trovate sul sito della radio oppure chiamatelo 06 49 17 50. La raccomandazione principale è quella di essere con noi, di partecipare a questo Capodanno e insomma chiamatevi se volete sapere come ci si arriva o altre cose in più. Andiamo avanti con la musica di Altro Verso dal Elum Audio. Vi faccio ascoltare Bazar e la sua Hard to Find nella versione remix di Masio Plex. Bazar con Hard to Find, Masio Plex, Funk Drop Remix su etichetta Hello Audio. Prossima novità, Dr. Berger con Pinkman su WAP Records. We'll be right back. così Dr. Berger con Pinkman su WAP Records. Vi ricordo, state sempre ascoltando Altro Verso in diretta fino alle ore 24 qui da Radio Onda Rossa con le migliori select underground del momento. 0649 1750 il numero di telefono per parlare con me, per così far sapere cosa state facendo, cosa combinate. Mando un saluto anche ad Agustarello, bella prova Agustarello, un buon anno anche a te. E poi naturalmente a coloro che ci stanno ascoltando e a coloro che stanno andando proprio ad Acrobax, nel frattempo sono sintonizzati qui su Onda Rossa. Adesso arriva Monkey Safari con Kiss the Birds su Mambo. Sono Monkey Safari con Kiss the Birds su etichetta Mambo Records. Andiamo avanti con le select musicali. Adesso arriva Carson Rausch con I Can See It su Hacker. Allora, siamo sempre qui in collegamento naturalmente con Onda Rossa, ascoltando Altro Verso per questo sabato notte. Dicevo, però, siamo anche in collegamento con Acrobax, esattamente con Marta, compagna che sta qui proprio al telefono. Insomma, come sta andando l'iniziativa ad Acrobax appena iniziata? Ciao Marta, innanzitutto. Ciao, allora, ciao a tutti e a tutti. Beh, io sto, intanto sto qua in sottoscrizione, che diciamo una sottoscrizione che si sta scaldando, direi, perché insomma, schieratissimi, come solo nei capodanni del cinema insieme alla radio, sappiamo, un muro che però insomma un muro sorridente, accogliente, un bellissimo concerto che ci aspetta anche dentro. Se volete mi avvicino per farvi sentire che già la musica insomma comincia a scaldare questa sottoscrizione che intanto lavora. Arrivano i prime, e questo anche appunto per ricordarvi che stasera qui Mamma Maria in concerto, Torpedo Sound Machine, mezzanotte ormai, non so se volete fare in tempo, comunque c'è anche poco traffico, ve lo dico, potete venire anche ancora in tempo per la mezzanotte. Se no, comunque dopo chiaramente vi aspettiamo qui, e non solo il concerto, poi ci saranno chiaramente le sale con i DJ e le DJ di Onda Rossa che... Insomma, andremo avanti fino a mattina inoltrata, insomma, ricordiamo. Però allora, mezzanotte... un mattiniero, vediamo se riesco a farlo parlare, perché siamo in diretta con la radio. Aspetta Marta, però ricordiamolo che a mezzanotte, tra 30 minuti, insomma, come festeggeremo lì ad Acrobax, fuochi... Devi parlare! Fale. No, non ho capito che niente, non parla, una voce muta della radio, quando sai radio parla un sacco. Va bene, e invece mo fa il timido. Comunque riusciamo già. Un'altra, allora aspetta, voci note della radio. Esatto, riusciamo già. Esatto. Voci note della radio. Ciao. Allora, siamo qui e quasi mezzanotte fa un freddo cane. E mo brindiamo. Quando brindiamo? Dai, prendiamo tra 25 minuti circa, 27 minuti, dai, manca poco a mezzanotte, quindi pronti. Perfetto. Botti, fuochi d'artificio. Pronti con i calici e le bottiglie, eccoci qua. Dai. Dai, qui cominciamo già i botti, dai, e bella, vai. Bella. Ok. Va bene, allora questa è un po' l'idea, chiaramente la nostra festa è iniziata stamattina, insomma ci tengo a ricordarlo con il saluto ai detenuti e alle detenute del carcere di Rebibbia, come tutti i 31, insomma, quindi continuiamo questa festa, aspettiamo chiaramente tutte e tutti. Ok, perfetto, a dopo Marta, ci vediamo insieme a tutti i compagni e tutte le compagne, ascoltatele. Bella prova, ok, a dopo, ciao. E dunque andiamo avanti con la musica di Altro Verso per questo sabato 31 dicembre. Questo era appunto un piccolo collegamento per così sentire le atmosfere e diciamo così l'ambiente che si respirava un po' lì ad Acrobax, ancora in fase da venire, però ci sono 30 minuti per la mezzanotte. La mezzanotte vi ricordo che la trascorreremo ad Acrobax con il grande falò, fuochi d'artificio, botti a più non posso, quindi sbrigatevi, uscite di casa, andate direttamente lì ad Acrobax per sostenere Onda Rossa, per divertirsi, andare a quel paese questo 2011, festeggiare insieme questo nuovo 2012, pieno di lotte, insomma pieno di impegno e pieno anche di divertimento. Adesso arriva Frank Vallat con Brooklyn su Electronic Pets. Bello, bel disco veramente questo di Frank Vallat, si chiama Brooklyn su Electronic Pets. Questa è musica elettronica underground di Altro Verso con DJ Misk per questo sabato notte. La musica qui da Onda Rossa andrà avanti fino alle 6 della mattina, con naturalmente l'ascolto delle migliori tracce del momento proprio da Altro Verso Radio Show. E poi naturalmente la notte di oggi andrà avanti con l'iniziativa di Capodanno ad Acrobax, anche con il sottoscritto che suonerà proprio nell'Electronic Dance Floor, ovvero nel tunnel del cilometro, a selezionare proprio questo sound, queste ritmiche. Quindi tutti e tutte invitati. Adesso arriva Matthias Schaffhauser con questa ottima Sorry Sweetheart, la label e la aggiunta. Questo è Matthias Schaffhauser su Adjunct Records. Sono le ore 23:29, sempre in diretta qui da Onda Rossa. 0649 1750, fatevi squillare il telefono di Onda Rossa per questo Capodanno 2012. Adesso è giunto il momento di fermarci un minuto e mezzo, due minuti e mezzo, e poi riprenderemo con la seconda parte novità di musica elettronica targata Altro Verso. Ancora una lunga notte insieme allo Acrobax, Capodanno 2012 a sostegno di Radio Onda Rossa. Saranno con noi nella Yard Mamma Marias e Torpedo Sound Machine. Benedetto che ha inventato il letto, armono non c'è da più bella cosa. Nella Room 70-80-90, Disco Inferno e nel Tunnel le migliori selezioni di musica elettronica. Allora, tutta la notte all'OA Acrobax a via della Vasca Navale 6 e naturalmente dalla mattina del 31 presidio sotto il carcere di Re Bibbia, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. 2, sabato 3 e domenica 4 dicembre. Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista. La notte comincia con Etroverso. Porto dalla notte, musica elettronica sin interruzione. Siamo rientrati in selezione con questo label Danza Macabra insieme a Diyala e la loro Getcha With Me. Veramente molto bella questa traccia, novità all'interno di Atroverso, ore 23.35 in diretta qui da Onda Rossa, sempre con DJ Misk, sempre con Atroverso. Musica elettronica fino alle ore 24 diretta, poi dalle 24 alle 6 della mattina invece in selezione automatica. Adesso arriva il nuovissimo disco di Mandy versus Buka Shade Home Remixes. Questa è la versione remixata da Tim Green, uscirà su Get Physical ed è veramente una bomba, una di quelle proprio da alzare il volume. Se ancora non l'avete fatto, siete in tempo, enfatizzate i bassi, alzate il volume a palla. Questi sono Mandy versus Buka Shade. Mandy vs Buka Shade, versione remix di Tim Green per la traccia Home su etichetta Get Physical Records. Adesso vi parlo di questo capodanno, 31 dicembre 2011, 1 gennaio 2012, capodanno Radio Onda Rossa con i DJ della radio, con il concerto di Mama Marias e Adriano Bono e la sua Torpedo Sound Machine. Si svolgerà il tutto allo Acrobax, via della Vasca Navale numero 6. L'ingresso a sottoscrizione di questa radio è di soli 9 euro e ci saranno ben 3 sound system in electronic dance floor alla potenza di 10.000 watt. Ascolteremo la migliore musica elettronica di Altro Verso con DJ Misk. Poi nella main room ci saranno appunto le selezioni reggae con Mamma Marias e poi con i DJ reggae della radio. Nella sala invece Trash Revival, i vari DJ di questa radio, insomma Fagiolino, Bernardo, Scarfa e Bodina, vi selezioneranno invece Revival, Rock, insomma tutto ciò che serve a festeggiare il Capodanno e servirà così a farvi passare un grande 31 dicembre in modo underground, in modo alternativo, anche in modo militante, perché insomma state venendo a partecipare all'iniziativa di Radio Onda Rossa e non è proprio da tutti, scusate se è poco ma non è veramente da tutti. Maggiori informazioni se chiamate lo 06491750, se volete sapere come arrivarci, che ne so, con gli autobus, non so se ancora ci sono gli autobus, però penso di no, vabbè, magari in macchina o a piedi eccetera eccetera, chiamate il telefono della radio oppure andate sul sito www.ondarossa.info e cos'altro, insomma festeggiate con noi il Capodanno. Mancano 15 minuti per le ore 24, poi la festa andrà avanti fino alle 7 della mattina sicuramente, anche forse di più se ci riusciamo, vediamo insomma come stiamo e come staremo. Proseguiamo adesso con la musica, arriva Phonos su etichetta We Are Records, un bel bassone pieno dritto e bei tribal che entrano. La traccia si chiama Nowhere Land, la musica è sempre di grande qualità, grande stile, è sempre Altro Verso. Alzate il volume qui su Onda Rossa. Thank you. questo è dalla We Are Records, si chiama Nowhere Land, l'artista invece si chiama Phonos ed è la terza new release di questa seconda parte di Altro Verso. Andiamo avanti, adesso arriva Sebastian Sun con Wonderland su etichetta Night Drive Music. Si chiama Sebastian Sun con Wonderland su etichetta Night Drive Music, sempre all'ascolto di Altro Verso, solo musica elettronica, sempre qui nel sabato notte di Radio Onda Rossa, anche oggi, quando naturalmente ci troviamo a Capodanno e siamo così pronti per andare a festeggiare. Mancano bene 10 minuti per salutare questo 2011 e dare il benvenuto ad un 2012. Ancora con la musica lo faremo. Lo faremo insomma fino alle 6 della mattina con la musica elettronica. Adesso arriva René Schwedler e la sua Ashes on the Dance Floor, remixato da Sven Wegner. così, Ashes on the Dance Floor, versione remix di Sven Wagner per René Schwedler. Sono le ore 23.56, pochi minuti alle ore 24. Naturalmente festeggeremo la mezzanotte con l'ascolto dell'Internazionale, esatto, giusto, Danielina lì ha ricordato, me l'ha ricordato bene, insomma, che qui si festeggia sempre, come è giusto fare, la mezzanotte del 31 dicembre ascoltando l'Internazionale. Quindi abbiamo 3 minuti di countdown e poi naturalmente daremo spazio al nostro inno, proprio all'Internazionale. Però Danielina, ti avevo detto, parla, presentalo, fa il discorso, non l'ha voluto fare. Vabbè, intanto vi presento la prossima track, ancora 2 minuti, la possiamo ascoltare al volo, da Pike Solo con l'Umpa Umpa, Mosferi Production, sempre altro verso, sempre su Onda Rossa. Ecco qui, ancora in diretta qui in Onda Rossa, mancano 30 secondi, alle ore 24 iniziano i botti, iniziano i festeggiamenti, e qui insomma sempre DJ Misk a parlarvi, veramente siamo così alla grande, siamo anche in diretta con Acrobax, adesso partirà l'Internazionale e contemporaneamente ascolteremo proprio i festeggiamenti di Acrobax, e così voglio proprio sentire urlare e strillare, ci sei Marta? Eccomi, io sono qui, sto tutto intorno a un fuoco gigante, ha calcato il mio la sua bottiglia a botti. Ecco, la sentire. Yeah. Allora sì, siamo sempre in diretta, eccomi Marta, ok. Nel mezzo del caos totale, un po' di d'artificio sulla testa, il poco davanti, sta in mezzo alla gente. Quindi abbiamo fatto mezzanotte in diretta con Onda Rossa, adesso deve solo venire qua. Fantastico, fantastico, il grande caos di Acrobax. Quindi rinnovo l'appuntamento a tutti e tutte, via della Vasca Navale numero 6. Ci vediamo tra pochissimo, insomma, lì a festeggiare fino alla mattina. E allora quando pure voi lì negli studi, l'abbraccio e correte qui. Un grande saluto a pugno chiuso. Vai, al 2012. Bella. Radio Onda Rossa. La voce della cultura antagonista. E quindi era così un collegamento direttamente da Acrobax. La festa sta iniziando alla grande e sarà ancora di più per tutta la notte di questo Capodanno. Non avete scuse, insomma, siete tutti e tutte invitati ancora una volta a venire a festeggiare con noi in modo militante, in modo alternativo, in modo underground, anche nella sala Electronic Dance Floor. Andiamo avanti con la musica elettronica. Io vi sto per salutare, stiamo andando direttamente lì appunto ad Acrobax per questo sabato notte. Grande Maurizio, grande Fabrizio, un saluto anche a Diana e Ernesto, esatto, ecco, scusa, non ricordavo, ma anche Simona naturalmente, non la dimentichiamo. Un grandissimo saluto a tutta la famiglia. Quindi, cosa dire? Vi auguro ancora una volta un grandissimo 2012, ci vediamo tra poco ad Acrobax con Altro Verso invece a sabato prossimo. Insieme allo Acrobax, Capodanno 2012 a sostegno di Radio Onda Rossa. Saranno con noi nella Yard Mamma Marias e Torpedo Sound Machine. Benedetto che ha inventato il letto, armono non c'è da più bella cosa. Nella Room 70-80-90, Disco Inferno e nel Tunnel le migliori selezioni di musica elettronica. Allora, tutta la notte all'Oa Acrobax a via della Vasca Navale 6 e naturalmente dalla mattina del 31 presidio sotto il carcere di Re Bibbia, perché di carcere non si muoia più, ma neanche di carcere si viva. questo è altro verso. Questo è altro verso.